agir bisognerà. Deve mio ricor mi fa, farò l'innaninanà. Chiudi, chiudi, scuro filo priverà di nome cielo, deve mio ricor mi fa, furo nina nina nina. Ove prendi questo latte dalle mie mame rintotte, perché ministro crudele ti prepara ceto e fiede di te, vedo ricor mi fa, farò nina nina nina. Ah, or mio so questo petto or pare te morbido letto, pria che rendi ad alta voce l'alba padre sulla croce. Sur questi membra belle vezzo sette tenere, perché puoi ferre catene li darà la cerve, bene deve mio ricor mi fa, con gusto caro vedi, ahimè, come in varie modi passeran acuti chiodi. Questa faccia graziosa Ruben condor giacche rosa, sputi, scaffi, sporcheranno, con tormento e cronda fanno. Ah, con quanto tuo dolore sola spemette il mio cuore. Questo capo, questi crini, passeranno a cotri spini. Questo divin petto amor mio dolce diletto vi farà piaga mortale, empia l'ancia di sale. Dormi dunque, figlio mio, dormi. Dorme la mia vita, del mio cor gioia con me. Tatschanjung und puro Zelo, Tatschanfin, Latte da Cielo.